fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le 2.48 del mattino, sabato 27 ottobre del 2018, di nuovo buonanotte da Master Nick, qui da Risto Radio Convento, ovviamente Convento di Nonato. E siamo qui in compagnia di un ragazzo e una ragazza, anche loro del gruppo Valsassina, però abbiamo finalmente anche un esordio maschile, perché per ora abbiamo avuto tutte donne. E mi prendo insomma questo secondo per dirlo, perché è anche una dimostrazione del fatto che ci sono maschi in Valsassina e non sono solo donne. Tra l'altro dobbiamo anche capire come li concimano questi ragazzi, perché sono altissimi e anche lei non è che scherza, però lui è un bel esemplare di albero, e quindi capiremo anche cosa mangiate per essere così grandi. Intanto vi conosciamo un po' meglio. Partiamo dalle presentazioni, che è la cosa più semplice e facile. Allora, mi chiamo Martina, ho 18 anni, vengo dalla Valsassina, più precisamente da Pasturo. E sono al quinto anno di liceo linguistico e non so più cosa dire. Beh, spopola sto liceo linguistico, già al terzo o quarto che me lo dice. Ma sta Valsassina in tutto quanti abitanti fa e quanti paeselli fa? Allora, dipende un po' dai comuni. Diciamo che la Valsassina... Perché, no, te lo dico, perché sono più o meno all'ottavo partecipante e non ce n'è uno che arriva dallo stesso... Cioè, avete detto tutti paesi diversi. È per quello che volevo capire, cioè, se si parla di un universo della Valsassina o di... Perché con Valsassina intendi 6-7 comuni. Ok. No, di più, saranno anche una ventina. Sì, dall'alta valle, quindi basta. Sì, esatto, tutto. Sì, una ventina di comuni, ognuno dà più o meno migliaio? Possiamo passare da Introbio, che è il mio, che ne ha 2000. Anche Pasturo ne ha 2000. Ad esempio, fino a Maggio, che quanti ne ha? E ne avrà, anche solo Barcia ne avrà 3000, sì, o così. Beh, insomma, sempre sul migliaio, 2000, 3000 e così via. Quindi, tu ti chiami invece? Io mi chiamo Claudio, 18 anni, frequento l'istituto tecnico, vengo da Introbio. Gioca basket. Non si era capito. Cioè, o meglio, capito no, però adesso ecco mi spiego tante cose. Da tanto tempo? Da quando avevo 6 anni. E quindi hai avuto modo di svilupparti anche approfittando ecco di quello sport. Ruolo? Pivot, quindi gioco sotto. Beh, centrale, esatto, centrale, il più alto e il più grosso, anche quello che prende più botte. O no? Ma in verità, oddio, il contrario forse, quello che ne dà di più. Sì, scusami, esatto. Trovo gente magari un po' più bassa, o comunque se trovo quelli più grossi riesco a tagliarmi lo spazio e andare a calcio. Sì, perché il pivot, per i neofiti del basket, per quelli che non lo seguissero, come diceva lui, è quello che sta sotto canestro, quello che insomma anche deve stare un po' lì per tenere lo spazio e creare lo spazio per gli altri. E, sei un pivot moderno, cioè che anche ha capacità di tiro, o sei uno che sta sotto e la butta dentro? Sono moderno in parte, nel senso ho un po' il tiro ma non lo uso, cioè non lo uso. Perché raramente mi trovo fuori area, quindi raramente l'opportunità piuttosto passo la palla al mio compagno. Certo. Perché sai che adesso nel 2018 si chiede tutto a tutti e non ci sono più praticamente ruoli definiti e cioè, insomma, non ci si può più accontentare di far bene una cosa sola, ma bisogna essere anche qualcos'altro. Guardare l'NBA, esatto. Durant, che è alto 2 metri eppure tira da 3 con percentuali mostruose, anche se lui è un pivot e quindi gioca. Esatto, ma segui l'NBA immagino, sì. NBA o italiano? Più NBA che italiano. C'è davvero tanta differenza? Il livello dell'NBA è raggiungibile. È raggiungibile. Vai, allora pronostico veloce, visto che il 28 ottobre abbiamo tempo di smentirlo o meno in futuro. Cosa combineranno i Lakers con LeBron James? Cioè, è davvero così determinante oppure no? Allora, fai conto che... Tu aspetta che tu puoi svenire ancora per qualche minuto, poi ti ridiamo vita tra un po', non ti preoccupare. LeBron l'anno scorso ha portato Cleveland alle Finals. Quando quest'anno Cleveland senza LeBron ha fatto 0 vittorie, 5 sconfitte. Quindi questo già fa capire quanto LeBron si deve. I Lakers non sono partiti molto bene, sono 2-3 forse, quindi 2 vittorie, 3 sconfitte. Devono ingranare la marcia, però secondo me una volta che le ingranano possono dire la loro. Ma come media punti è ancora alto? O anche lui deve ingranare un po'? LeBron no, abbastanza, sono media abbastanza alte. No, ok. Diciamo che lui quindi non è bollito, insomma, ne ha ancora un po'. Ne ha ancora da dare. Soprattutto come fisicità è incontenibile. Sì, sì. Tra l'altro i Lakers è un bel po' di anni che non vanno bene, quindi diciamo che si sono indebitati fino al collo per cercare di tirarla su. Diciamo che dopo l'era Shaquille e Kobe Bryant hanno avuto un calo pazzesco, hanno preso giocatori mediocri, hanno fatto... Poi a un certo punto hanno capito che... i draft sbagliati e quindi alla fine dei conti... A un certo punto hanno capito che si gioca per vincere e non per partecipare e hanno detto dobbiamo tirare fuori, is gay come si dice, e ci hanno provato. Bene Martina, tu in tutto questo cosa ne pensi? Qual è la tua mera opinione? Quali sono le tue statistiche al tiro? Non ho statistiche, non ho opinioni. Bello, mi piace che tu... In realtà ho giocato a basket per un anno, però non è che seguissi... L'hai abbandonato. Quali sono invece le tue passioni? A me, io seguo tanto la MotoGP. Ma va! Vedi che comunque fuori dagli schemi, mi piace. Le auto corrono domani. Anche la moto? Anche la moto? Certo, alle 7 di mattina. Le guardi? No. Registri. Fan di? Valentino Rossi. Valentino, beh, com'è giusto che sia. Allora, anche a te domanda scottante, come ho fatto a lui. Quanto credi realmente che nel momento in cui Valentino si ritirerà, perché pace l'anima sua, non potrà stare in moto a vita, l'interesse e l'ascolto anche televisivo delle MotoGP crollerà drasticamente? Perché io avessi trovato uno a cui sta sulle palle Valentino. No, sì, secondo me crolla di brutto. E come mai? Ma spiegami un po' sta cosa della passione per Valentino. Cioè, cosa dà? Cioè, è un personaggio, nel senso, vabbè, a parte che è sempre stato fortissimo, no, ovviamente sì. Adesso c'è Marquez e tutto quanto, voglio dire, è un drago Marquez, secondo me, nonostante non tifi per lui. Però c'è anche da dire che negli ultimi 4-5 anni è cambiato il modo di guidare. Cioè, nel senso che Valentino è più, passami il termine, pittore. Cioè, lui ha sempre guidato in modo molto artistico, molto pulito, molto bello anche da vedere. Mentre adesso Marquez, Vignale, insomma, tutta quella gente lì sono proprio adesso mi viene da dire maiali, ma è brutto. Però nel senso, no, maiali, perché trattano proprio male la moto e la spingono proprio al limite massimo. Al limite massimo. Quindi è anche proprio cambiato l'atteggiamento, l'aggressività nei confronti del mezzo e dell'approccio alla guida. Sì, no, è vero. Nel senso, anche solo il fatto che, cioè, è brutto da dire, ma Marquez tutte le cose che ha fatto, e nonostante questo non gli abbiano dato tanta penalità, esatto, ha vinto il mondiale l'ultima gara. L'hanno appoggiato. E invece è un po' stupito Vignales, che sembrava che dovesse sconvolgere il mondo. E Marca sembrava che invece... Ok, quindi anche tu confermi che quando Valentino se ne andrà, mi sa che dovranno inventarsi qualcosa, tipo il LeBron ai Lakers in qualche modo. E quanto hai goduto sul cavatappi? Cos'era? Stoner, sì, dovrebbe essere a Stoner. Quella è... momento indimenticabile. Ero piccola, però mi ricordo. Che più quello, direi Catalogna 2009, l'ultima curva, Rossi Lorenzo. Ah sì, bella. Però il discorso del cavatappi è quello che dicevo prima, è proprio tirare fuori il coniglio dal cappello e dice vabbè, è finito, andata, ciao bello, grazie, truc, esatto, è Valentino, però in qualche modo la piazza. E anche voi, chiedo come ho chiesto agli altri, che sogni avete, se ne avete? Ma io, il mio più grande sogno sarebbe quello di giocare dilettantisticamente in un livello alto di basket. Quindi non fare, cioè non farlo di lavoro, non viverci, non fare professionista. Ma se ne avesse possibilità anche. Certo, non è però dire, non è che sei fissato lì, non sei fissato lì. No, infatti posso, anche una serie B, una serie C sarebbe un grande traguardo. Anche perché vedendo il livello dei giocatori ogni anno migliorano sempre, nuovi allenamenti, sono veramente... Tu quante volte ti alleni a settimana? 3? 2? Cioè due più partita? Una più partita? Ah, infatti, due più partita. E che tipo di allenamenti ci sono a basket? Perché, allora, è anche bello capire come funzionano le cose, come si arriva alla fine, insomma, di un percorso. Cioè, fisico, tattico, come funziona? Ma, principalmente si parla di lavoro fisico, quindi resistenza. Quindi, che ne so, squat, sì, per allenare quelle che sono le parti del corpo più a rischio in partita, quelli che dove ti vengono i crampi, sì, per evitare che ti succeda in partita, e poi tanta corsa. Ok, ma tattica c'è qualcosa o è tutto tiro? In verità sì, cioè dipende, ognuno ha un proprio schema per uomo e zona. In base a quello che difende, tu hai un schema predefinito. Beh, che si provano però. Sì, Si provano in allenamento. Se in partita vedi che non funzionano, lo decidi, ah, devo fare questo cambiamento, faccio questo invece quell'altro. Quindi voi, diciamo così, facendo un paragone culinario, preparate tanti menù, ok? E durante la partita, in base all'avversario, scegliete che menù presentare, una sorta di del genere. Cioè, comunque voi preparate schemi durante l'allenamento, durante la settimana, ma non in previsione della partita, dell'avversario. Li preparate, punto e basta. Sì, e poi in base a come va decidete come giocare. Diciamo che capita spesso che usiamo anche tutti. Sì, ma finalizzate all'avversario che incontrerete o li preparate, punto e basta? Ma allora, prima della partita sono finalizzati al tipo di avversario che abbiamo. Quindi io so, loro giocano zona, ok, faccio zona. Ok. Ok. Però se non c'è la partita, allora facciamo un miglioramento generale. Ok, ecco, quello volevo arrivare. E altra curiosità, si gioca 5 contro 5, cioè nel senso i titolari contro le riserve, o mischia un po' le carte, perché in quel modo si capirebbe e si darebbe un approccio diverso all'allenamento? Allora, diciamo che i 5 titolari non sono quasi sempre gli stessi. Ah, ok. In base alla situazione può cambiare. Ad esempio, se trovi una squadra molto alta, allora tendi a mettere giocatori alti che ti danno sotto canestro. Mentre se trovi una squadra medio-bassa, sai che puoi giocare con certi giocatori che non sono altissimi, comunque ti fanno la difesa. Ok, e quindi in allenamento non ci sono titolari e riserve, non esiste o poco, esiste poco. A meno che quei giocatori come LeBron che tu devi mettere per forza perché sai che... Sì, no, dicevo nel vostro caso, nei vostri allenamenti non c'è la divisione titolari e riserve. Ok, e mentre tu Martina, il tuo sogno? A me piacerebbe fare una gara di enduro. No, hai visto, cioè neanche proprio fare il medico, no. Partecipare a una gara di enduro. Sì, che sarebbe, aiutami? Enduro è... moto da enduro, ad esempio cross, tipo, no, tipo cross, ok, omologata, ok, va su strada anche, sì, ok, e però le gomme sono come le gomme da cross, ok, no? Ed è fettucciato, ovvero ci sono, come si possono chiamare, tipo dei nastri, certo, certo, sotterrato. Beh, ma c'è modo di farlo professionalmente o... Sì, anche, ovviamente, cioè io non intendo una gara professionale perché enduro a livello professionale è alto, uh-huh, nel senso. Però anche solo una gara, ad esempio, 2 settimane fa, appunto a Pasturo, in Valsassina, hanno fatto una gara e non potevo partecipare perché non ho la licenza. Ah, ok, chiaro. Sono entrata dopo, furtivamente, alla fine. Mi piace, vedi, veramente fuori dagli schemi questa Martina, che c'ha sta fissa in testa. Bello. Ok ragazzi, allora grazie mille anche a voi per aver chiacchierato un po' con noi, soprattutto di sport, perché abbiamo parlato tanto di quello, ma si vede che è la vostra passione, quindi è bello far uscire l'emozione, il cuore che c'è dentro di voi. E niente, buona serata e un buon ritorno, speriamo di rivederci presto. Certo. Buonanotte, grazie. Ciao. Ciao.